sì, di nuovo io stessa in piedi è morta, ma con lui non è anche morto l'odio che al suo nemico deve il sangue ottomano. Io solleverei, raccomandando con un guardo il padre, e quel poco che resta del suo gran cuore in me so custodirlo. Io son l'unico avanzo dell'ira tua, raccogli in me tutti i tuoi sdegni, abbia raccolto contro te in me sola tutti nel sangue mio gli sprezzi e gli odi. Mirami quella sol che già due volte tento darti la morte, e sono rema perché non l'ho eseguita. Se non furono le mie colpe bastanti per una nuova morte, almeno quella rendimi che gettò la mia vendetta, rendimi la crudele e al genitor m'invita a placarli la sua.